Bentornati, bentornati in diretta a Citofonaria di Nolfi. Allora, come promesso, oggi chiusura delle presentazioni delle liste qui a Citofonare ad Inolfi con Partito Democratico. La candidata che vi presentiamo è Ilaria Bonaccorsi. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, cara Ilaria, tu sei candidata del PD, oggi vai alla manifestazione di chiusura di Matteo a Piazza del Popolo? Sì, vado a guardare, sì, vado a vedere. Da lontano, diciamo. No, a guardare in piazza, dai. Andiamo a vedere la piazza. La piazza è la cosa più bella. Com'è stata questa esperienza di campagna elettorale? Faticosissima, per certi versi bellissima. Direi che il popolo del PD è spaccato in due, ma quello che lo contraddistingue è senz'altro una passione sfrenata. Poi si dividono in impazienti e impazienti, ma in modo altrettanto appassionato. Cioè, c'è chi ti chiede di fare di più è impaziente e chi farebbe qualsiasi cosa per il suo partito. Quindi è un'umanità, devo dire, bellissima, che non conoscevo così bene. Ecco, questo. Anche perché questa è la tua prima esperienza di campagna elettorale, o sbaglio? Così capillare sul territorio, su quattro regioni, sì, devo dire di sì. E non credevo fosse così coinvolgente, ti strappa completamente qualsiasi vita normale, diciamo. È anche così faticosa, diciamo, proprio fisicamente. È faticosissima, però per esempio io non conoscevo, ovviamente non avendo mai fatto in modo organico, no, politica dentro il partito, non conoscevo neanche così bene il popolo del PD, invece adesso... Adesso hai capito che è un popolo vasto, anche, insomma, è capillare, presente, insomma. Vastissimo, arrabbiato, paziente, un po' tutto, quindi devo dire situazioni difficili, situazioni bellissime, le ho vissute un po' tutte. Senti, sei stata candidata in quota civatiana, si dice così, nella logica, insomma. Quindi tu appartieni all'ala sinistra del partito, insomma, giusto? Appunto che, vabbè, come al solito che l'ho fatto soprattutto... Ho condiviso quasi tutto il suo percorso, sono anni che lo seguivo, capisco la sua battaglia, la condivido e quindi sì, in quota civatina, come dico io. Quindi guardi Renzi con un po' di così distacco, diciamo, non ti sta simpaticissimo. Non è tanto distacco, anzi direi che lo guardo in modo... pretendo, ma buona parte del popolo del PD pretende di più, pretende di riaffermare, diciamo, una differenza fra destra e sinistra, pretende, diciamo, secondo me, di ricostruire un discorso che persuade veramente, che convince. Ho visto un sacco di disperazione, di delusione, la gente si sente un po' tradita. Quindi c'è tanto da fare, non è distacco, anzi, secondo me è l'affetto più vero, quello che chiede di più, no? E che giudizio dai dell'azione di governo svolta fino adesso da Matteo Renzi, dalla sua compagine? Voi civatiani, lo ricordo ai nostri radioascoltatori, eravate contrari all'operazione di arrivo all'arrivo di Renzi al Palazzo Chigi. Il meccanismo con cui è stato defenestato Letta non vi è piaciuto, l'avete esplicitato molto chiaramente. No, assolutamente no, perché semplicemente si auspicava e si desiderava un passaggio per le urne. Esatto. Perché poi il governo è più forte se viene legittimato, no, dalle persone che lo chiedono, lo desiderano e lo realizzano. Per certi versi, scusa, questa è una forma di legittimazione che Renzi può avere dalle urne, cioè quello che cercavate come timbro delle elezioni, può essere questa l'occasione? Dunque lui si ostina a dire di no, cioè lo stesso Matteo dice che no, non è un plebiscito nei suoi confronti, anche ieri. Certo lo diventerà, in Italia lo diventa sempre, no? Per cui questo forse un po' preoccupa. In realtà questa è stata la grande fatica di questa campagna, parlare di Europa e di europei. Si tornava sempre a un dibattito molto molto italiano in cui veicolavano pochissime idee, e questo direi che è un po' il grande difetto sia dei media che dei politici, forse. Sono state europee senza Europa, diciamoci la verità. Insomma. Sono state europee senza Europa, sono state europee con un'Italia schiacciante, con questo dibattito fra Renzi chiuso, tra Renzi e Grillo, che diventa davvero un po' asfittico, cioè a chi la... diciamo a un Renzi che prova a rispondere per le rime a un Grillo, che però è assolutamente forse non bisognerebbe rispondere. Ah, sai che io sono d'accordo con te, peraltro, sì, per quel poco che conta. Secondo me bisognava essere meno aggressivi nei confronti del 5 Stelle. Sì, tanto perché abbiamo demonizzato per 20 anni Berlusconi, gli abbiamo fatto un grande favore. Adesso lo facciamo con Grillo. Se tu vai nelle piazze di Grillo, vedi un sacco di gente che ti assomiglia, e le cose che dice Grillo, purtroppo, in buona parte sono vere. Il problema sono le sue ricette, sono folli. Per me non esiste un'Italia senza Europa, un'Italia senza euro, cioè, non si torna indietro, si va avanti, quella è la cosa bella. Anzi, andiamo a fare l'Europa quella vera, quella che si sognava Spinelli, Delors. Insomma, bisogna invece portare la migliore Europa in Italia, l'Italia più bella, quella che faremo in Europa, secondo me. Senti, io ti ho conosciuto a Red, sì, perché tu, sì, lavoravi con, sì, noi in quella esperienza, sì, bella e sfortunata, diciamo, no? Sì. Ti sei preoccupata di terra, mi pare, No. No, non è quello, è tuo fratello? Allora, di terra mai, sì, era mio fratello. Left. Di left. Sempre. Adesso ovviamente ho mollato, mi sembrava giustissimo farlo, però sì. Però mi interessa questa cosa, perché, sì, appunto, left, red, tu capisci, insomma, che hai un passato, sì, ipercolorato. Perché non stai con Tsipras tu? Qual è la differenza? Cosa ti ha portato nel PD invece che in quell'esperienza lì? Dunque, l'ho detto, e questo mi ha ovviamente creato anche qualche elettore arrabbiato, ma io, diciamo, faccio parte di quello Schulz che guarda Tsipras, cioè io mi auguro assolutamente che in Europa non si facciano larghe intese, mi auguro uno Schulz forte che guardi sia gli ambientalisti che a Tsipras. Perché Tsipras, perché non Tsipras e perché PD? Perché non sei una candidata di Tsipras, dove francamente, poi te lo dico con amicizia, tu sai, sì, che la lista del PD, dici, la lista del PD è complicata, c'hai i pesi massimi delle preferenze, c'hai Bettini, c'hai Gasbarra, c'hai Sassoli, La Costa. Ho passato un mese a cercare di difendere il PD dal popolo del PD, devo dire che è stato disarmante Pippo, cioè quando mi ha detto donna laica, colta, giornalista, storica, io non ho saputo, cioè ho resistito un po', poi mi ha detto però Ilaria tu sei il mio miglior PD, e allora lì non ho... Il senso è quello di... Ma la mia domanda era maliziosa, anche per i tuoi interessi personali, diciamo, forse ti facevi meglio dal punto di vista pure dei consensi andare a correre con loro. Cos'è che ti distanzia per scegliere? Allora, secondo me, no, ecco, non ho corso per nessun interesse, ho corso per amore. Sono consapevole del fatto che la lista è ben popolata di gente straforte, esatto, di pesi massimi, non so, comunque tutti i voti che prenderò saranno davvero guadagnati, ma nel senso migliore del termine, conquistati con grande affetto, con grande empatia. Secondo me bisogna rimettere... Ma nell'esperienza di Tsipras tu vedi velleitarismo o la guardi con simpatia? Cioè, per una come te che sta a quel confine tra PD e sinistra, sì, diciamo sinistra-sinistra, quelle esperienze, sì, che dal mio punto di vista per esempio sono fallimentari, perché penso alla sinistra, sì, arcobaleno, penso alla vicenda della rivoluzione civile, secondo me quelli sono voluti buttarli, lo dico proprio con grande franchezza. Però una come te, che invece è una posizione diversa, come guarda e come considera quell'esperienza? Allora, intanto nessun voto secondo me è buttato, il tetto al 4 secondo me è un'ingiustizia. Però c'è, e quindi, vabbè, rischiamo pure in realtà l'invalidazione, perché non è, e questo non finisce. Io purtroppo condivido, dico purtroppo perché è faticosissimo, non condivido il discorso del voto utile e inutile, secondo me il voto deve essere in questo caso con le preferenze qualitativo e intelligente. Detto questo, io credo nell'idea di Pippo di costruire una sinistra di governo, e sono d'accordo che bisogna guardarci bene da una sinistra che odia la sinistra, che è quella sinistra che si è frantumata in 3.000 pezzi, si è massacrata e divorata, no? Tra piccoli oramai, non so, particelle di sodio, per cui capisco il discorso di rimanere dentro il PD e cercare di spostare, diciamo, il carro dei vincenti, come mi hanno detto, a sinistra. Ecco, io faccio lo spingitore di carro verso politiche di sinistra, diciamo, anche perché non lo so, io sarà che ho incontrato il popolo dei civatini, ma appena dici la parola sinistra vedi i cuori e le menti che si riaprono. e sorridono. A proposito di questo, sai che dal 1946 questa è la prima volta che sulle schede elettorali, dopo ben 68 anni, non c'è la falce e martello? Questa è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che non c'è nessun simbolo con la falce e martello. Ti fa una certa impressione questa cosa? No, devo dire che mi fa impressione, se posso dirlo, invece di essere entrati finalmente nella grande famiglia del Partito Socialista Europeo, perché poi guarda che Spinelli sognava una rivoluzione socialista, la rivoluzione europea era socialista, il che vuol dire che no, voleva l'affrancamento delle classi lavoratrici, ma voleva regalare una vita più umana. Ecco, secondo me è quello che dobbiamo andare a fare, cioè bisogna mettere, bisogna rispondere ai bisogni delle persone perché sono sacrosanti, perché se non c'hai da mangiare non te ne frega niente di Mozart, ma in realtà bisogna pensare anche a Mozart, cioè bisogna mettere insieme i bisogni e le esigenze, no? Il pane e le rose, come dicevano. Il pane e le rose, bravo, ma infatti Lefter era proprio l'idea di Lefter era il pane e le rose quando l'abbiamo fondato. E allora vi ho voluto presentare, perché le voci le ho voluto presentare davvero proprio tutte in queste puntate di Citofonare di Nolfi, anche la linea di un segmento del PD che è particolare, che non è maggioritario, però insomma ha espresso in questa circoscrizione Italia centrale, lo ricordiamo a chi ci ascolta, poi tutte queste cose vanno sempre spiegate con attenzione, cari, perché la candidatura di Ilaria Bonaccorsi, se la volete votare, non è che avviene per lo Spirito Santo, dovete mettere una croce sul simbolo del PD e dovete pure fare lo sforzo di scrivere Bonaccorsi, non siete più abituati, siete abituati alle liste bloccate. Esatto. Ecco, in questo caso è un bel lusso, no? Dai, secondo me per una volta si può scegliere. Il che vuol dire che poi potete chieder conto, perché secondo peraltro, me è quello il bello della preferenza. Se però volete votare la Bonaccorsi, attenzione, se per esempio siete elettori del PD e votate, che posso dire, Bonafè, Costa, Bonaccorsi, siccome Costa è una femmina, si chiama Silvia Costa, la preferenza Bonaccorsi non è valida, perché sarebbero tre donne e non si può fare. Spero avete spiegato bene questo ai vostri elettori, perché l'abbiamo spiegato che c'è una questione di genere, o due donne e un uomo, o due uomini e una donna, o due donne e basta. E quindi dovete, potete scegliere fino a tre preferenze, ma se ne scegliete tre, e solo se ne scegliete tre, dovete stare attenti all'alternanza di genere, devono essere di genere diversi. Se no Bonaccorsi secca. Ah, vedi come sei egoista però, avrei fatto le tue cordatine, c'hai pure la capolista donna. Nessuna cordatina. Non hai fatto nessuna cordatina? Ma perché nessuno ha voluto fare la cordatina con me? No, povera, dai, questo è ingiusto. Vabbè, insomma. Ma va bene, dai, va bene così. Va bene, allora in bocca al lupo e ciao, forza con le ultime ore di campagna elettorale, poi ci avrai modo di... Esatto, adesso vado ai Castelli. Dove? Qual è la prossima iniziativa? Ti informiamo. Castelli. Oggi faccio un giro dei Castelli e domani sono a Terni, invece vado in Novamont, in questa splendida fabbrica riconvertita da Katia Bastioli, che produce Mater B, questa plastica biodegradabile, stupenda, un po' il nostro avete capito? Futuro. Sinistra e ambientalista, insomma. Ale, Ilaria Bonaccorsi, ai Castelli a far fraschetta a luna, concediti una pausa. ciao, bocca al lupo, Ilaria Bonaccorsi, candidata nel PD del Partito Democratico.